Salve a tutti gli ascoltatori da Radio Big World. E oggi vi racconto qualche cosa che spero vi incuriosisca e vi dia soddisfazione da un punto di vista di informazioni che riceverete su una cosa che utilizziamo tutti i giorni, sul caffè. Mescolare chicchi di caffè provenienti da più paesi comporta di avere il migliore espresso possibile. Tant'è che se voi entrate in un magazzino di una torrefazione, vedrete che ci sono tanti sacchi di caffè con marchiature di provenienza che indicano provenienze estremamente diverse. Vengono dal Brasile, vengono dall'Etiopia, vengono dal Marocco, vengono da tante parti nel mondo e sono lì a aspettare il loro turno di mescolamento e di torrefazione. La zona dove nasce il caffè è quella equatoriale, diciamo è tra i due tropici, che significa 23 gradi circa sopra l'equatore e 23 gradi circa sotto l'equatore, per avere una visione da dove viene la nostra tazzina di caffè. Il caffè, come tutti sapete, ha due tipicità di origine, cioè può essere o arabica oppure può essere robusta. Le due tipicità del caffè dipendono dall'altitudine in cui viene effettuata la coltivazione. È la stessa pianta che, coltivata in pianura, produce arabica, coltivata invece in collina fino a oltre 1000 metri produce robusta. Le due qualità, per produrre un buon espresso, devono essere mescolate con fare sapiente dal torrefattore che ha ricevuto quelle balle di caffè che dicevamo prima accatastate nel suo magazzino. Per curiosità vi do un'informazione forse un capellino disgustoso, ma realistica. Il caffè che costa più di tutti, al crudo ovviamente, è un caffè che si chiama Kopi Luwaki, che costa circa 500 euro al chilo, quindi tanto, tantissimo, 500 euro al chilo. Perché il costo di questo caffè? Perché c'è un uccellino che si chiama zibetto, ghiottissimo delle bacche di caffè, se le va a mangiare e poi le rifà nelle sue feci. Le feci vengono messe in un ambiente umido, viene ripulito i chicchi di caffè che non sono digeriti e quelli sono il caffè dello zibetto, che costa 500 euro al chilo e che è il migliore e il più costoso caffè che esiste al mondo. Com'è nata l'avvicinamento dell'essere umano alla pianta del caffè? Perché la pianta del caffè, che è una bellissima pianta, nessuno sapeva che avesse queste doti particolari, cioè di essere confortevole per l'animo umano. Poi se ne accorse un pastore che, pascolando le sue capre vicino alle piante di caffè, si rese conto che quella sera le capre che avevano mangiato le bacche rosse del caffè non riuscivano a dormire e erano piuttosto agitate e anche piene di energia. Il pastore capì la lezione e il giorno successivo raccolse per sé e per i suoi familiari le bacche rosse del caffè, fece il primo infuso e da lì nacque il gusto del caffè, da cui l'umanità oggi non riesce a liberarsi. Vi parlo anche della pianta del caffè, perché è una pianta curiosa. Contrariamente a tutte le piante che noi conosciamo nei nostri climi, che prima hanno una fase di fioritura, poi di prodotto verde e poi di prodotto maturo, la pianta del caffè porta avanti contemporaneamente le tre fasi della produzione del frutto maturo, cioè nella pianta esistono contemporaneamente fiori, frutti verdi e frutti rossi. I raccoglitori di caffè devono raccogliere solo i frutti rossi, che poi vanno lavorati e vanno a finire quindi nella nostra tazzina di caffè. Una volta raccolto, come dicevamo, il caffè viene nelle nostre torrefazioni e lì la mano sapiente, l'esperienza sapiente e l'orecchio raffinato del torrefattore producono quelle qualità che a noi piacciono tanto, oppure che noi mettiamo da parte per sceglierne altre. Come avviene la torrefazione? Si prendono i chicchi di caffè verde che hanno diverse origini territoriali, Brasile, Tunisia, eccetera, e si mescolano in quantità adeguata. Dopodiché questa mescola viene inserita in un tostatore, che è un ambiente dove c'è una temperatura adeguata alla tostatura, e un cilindro con i chicchi di caffè che ruota all'interno di questo ambiente riscaldato. Il cilindro ruota per circa 20 minuti e il caffè a questa temperatura si tosta, cioè perde l'umidità e si cuoce. Ogni tanto il tostatore si avvicina alla macchina e prende un saggio per vedere a che punto è la tostatura, come avviene su tutte le cose controllabili. Ma a un certo punto avviene una cosa molto molto strana. Tutti quelli che sono nella stanza della tostatura devono tacere. Altre macchine che eventualmente sono accese nella stanza della tostatura vengono spente, perché il tostatore appoggia l'orecchio allo spioncino della macchina tostatrice e in silenzio ascolta. Ascolta il suono del caffè. Quando il caffè è arrivato al punto giusto di tostatura e il tostatore lo riconosce quel suono, si arresta la tostatura e si procede alle fasi successive. Se questa operazione viene sbagliata, può succedere di buttare via tutta quella tostatura e quindi economicamente è un danno notevole. Ci hanno detto che questo qui non avviene quasi mai, per fortuna nostra, perché altrimenti il caffè costerebbe molto di più. Allora il caffè tostato viene raffreddato, viene messo nei maturatori. I maturatori sono dei contenitori dove il caffè freddo rimane lì con le sue caratteristiche di tostatura per più giorni in relazione al microclima che c'è in quell'ambiente e al microclima dei luoghi dove sarà consumato quel caffè. Poi il caffè viene prelevato da questi contenitori per la maturazione, viene macinato e viene preparato sia in cialde, in capsule o in polvere per moka. Le macchine che fanno questa preparazione in cialde, in polvere, sono velocissime e oltre a lavorare velocemente in maniera super igienica la polvere di caffè che è venuta dalla tostatura, come dicevamo, eccetera, eccetera, eccetera, sono delle macchine che danno le massime garanzie di igienicità, e questo è un altro elemento importante. Poi, una volta che la polvere di caffè per la moka, la cialda oppure la capsula vengono inserite in un contenitore da cui si toglie aria e si mette azoto per mantenere la loro freschezza, quindi il frutto della pianta di caffè, la bacca rossa, arriva nelle nostre case dentro a una cialda immersa in una sostanza che la mantiene fresca per il tempo necessario. A questo punto, che sapete tutto sulla produzione del caffè, su come viene tostato, su quanto è buono, sedetevi, prendete la vostra cialda, la vostra moka e fatevi un buon caffè, perché avete diritto, dopo aver ascoltato questa lunga chiacchierata sul caffè, a rilassarvi con un buon caffè. La signora che ci ha fatto da guida nella tosteria di caffè ci ha consigliato di non utilizzare il caffè decaffeinato. Il motivo ve lo racconto prossimamente. Per ora buona giornata a tutti e a risentirsi presto su Radio Big World.